arrivo qua a sentire Claudio. Ma cosa fare? Io stai correndo la moglie. Questo lo faccio io. Bello, va a mettere, dai, posso io. Che ascolti, chi non c'è? No, ma c'è trovato il culo, insomma, con tutto. E c'è troppo male già. Ho una sigaretta, anzi, mi metto una sigaretta. Mi ha crepato. Oppure ci diamo una mossa e andiamo a cercarlo. diversamente. Poi tu vedrai quello che... Dov'è? Però... Sì, non vi lugare. Ma cazzo di un cazzo, scusate. Ma... Domani faccio una cosa, poi... Sì, gratta, gratta. Mette la grattura che ha passato della macchina. Su un uomo e ci avvii fanno un marocco. microfono lì. Poi si riconosce, lo sai, no? E che prende? Ricorre Don Muglieri a tal microfono. Ah! Ricorre la moglie del friato. Il furbano, basta uscire in macchina. E la trovano subito, subito. Non so cosa fare. ci copriamo verso lui, dai, una prova qua. Passiamo ci bussa dalla porta, aspetta un attimo. Ci citofono. Fare a tanto il segnale, non vai avanti. Non si può fare male, no, ma perché non si sa mai, uno può passare, può alzare. Fermo un attimo vicino, vediamo un po'. Senti, la tenali. Sei gratta, gratta. Di no. No. E già scotta di persona, ciò dice di no. Dobbiamo prendere anche una puntiglia in modo che siamo di gente, no? Guarda. Gratta, contro la grattare. Gratta, gratta, gratta. Gratta, gratta, qua gratta non sa. Ti sento un altro malacchio, gratta, gratta. Gratta ancora. Vieni, gratta, vedi. Gratta, gratta. Continua. Stazionale di bugie e yeah, niente no. Ah, c'è un bel film a canale ma c'è un bel film a canale 5 guarda non sta guardando. Ma in chiesa te lo fa regalare. Senti, ma senti quando, Gianni, senti quando molla, quel rumore fa. Regolati in quattro, regolati bene per me. Ci organizziamo, andiamo e lo cerchiamo. Vedrai che lui poi non lo fa più questo qua. Ma ci si vuole a lui. Vai a lui. Capisci? Gatta, gatta. Gatta, ancora, ti penso per addormentare, hai visto? Sono da quadrivolti della moglie. accetta. Ma grazie Gian, che hanno fatto un corpo che mi senti. Sembra moglie di questi denti. Ma Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Ciao, è a lui, ciao.